Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. 80 candeline! Non so se lei mi conosce, caro Presidente, io sono il 30% del suo fatturato. Niente, che dirle, volevo farle i miei personali auguri nella convinzione che quando un giorno io avrò 80 anni mi telefonerà lì personalmente per farmi gli auguri. Perché, cari italiani, questo me li farà gli auguri quando avrò 80 anni. Vedrete che sarà così. Su col morale! E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è stato il modo di allungare lunga vita, anzi di augurare lunga vita da parte di Checco Zalone a Berlusconi, Silvio Berlusconi, l'ex cavaliere che oggi compie 80 anni. Auguri a tutto il mondo, anche dal suo amico Putin. Ne parleremo, perché parleremo molto di politica questa sera, anche perché intanto c'è stata l'assemblea capitolina oggi e la giunta di Roma ha ufficializzato il no alla candidatura di Roma per le Olimpiadi 2024. C'è stata ancora un po' di bagarre, ma Lagò è ancora piuttosto contrariato, che dice poi verrà in questi giorni il presidente del CIO, Comitato Internazionale Olimpico, a Roma. Io cosa gli dirò? Non posso decidere io. Poi c'è ancora un altro problema per la giunta Raggi, perché sembra che si stia dimettendo il ragioniere generale Fermante. Nessuno lo sta fermando. Ce lo chiederemo e capiremo se sì o se no. E poi Renzi, che prosegue la sua campagna elettorale sul referendum. Fra le altre cose, una delle cose più forti di oggi che avrebbe detto, molto contestato dalla minoranza PD, ha detto: io voto, cioè io accetto volentieri anche i voti della destra, se non vogliamo i voti della destra saremo minoranza, invece io voglio essere maggioranza. Per i vostri messaggi, per la vostra interazione con Effetto Notte, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook del programma, la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666. Ci occuperemo anche poi di molte cose, di questo incidente ferroviario che c'è stato nel New Jersey, negli Stati Uniti. Impressionanti le immagini, per fortuna almeno c'è stato un solo morto, molti però i feriti. E poi anche in Siria, una situazione come sempre terrificante ormai da 5 anni. Però prima di tutto, come sapete ormai, il riassunto della giornata. Roma, la giunta capitolina formalizza il no alle Olimpiadi. Intanto si dimette anche il ragioniere generale per il caso Scontrini, chiesti 3 anni e 10 mesi per l'ex sindaco Marino. Referendum, chi non prende anche i voti della destra, dice Renzi, resta minoranza, io punto ad avere la maggioranza. Il compleanno di Berlusconi, l'ex cavaliere compie 80 anni e chiede al centrodestra di ritrovare l'unità. Dopo i festeggiamenti, la partenza per gli Stati Uniti, e per il processo Rubiter chiede il rinvio dell'udienza per cause di salute. Stati Uniti, un treno di pendolari per New York si schianta nella stazione ferroviaria del New Jersey, il bilancio è di un morto e 108 feriti, esclusa l'ipotesi terrorismo. Siria, l'UNICEF denuncia ad Aleppo strage di bambini. Il segretario di Stato americano Kerry dice pronti a sospendere i colloqui con la Russia se non sospende i bombardamenti. La morte di Shimon Peres, Obama, Renzi, Abu Mazen, domani al funerale dell'ex presidente israeliano. Il feretro esposto sul piazzale davanti alla Knesset, il Parlamento israeliano. Bollette da ottobre, meno 1,1% per la luce, più 1,7% per il gas. Secondo l'autorità per l'energia ci saranno risparmi complessivi nel 2016 per 96 euro. Risico nell'editoria, Mondadori dopo la fusione con Rizzoli cede Bompiani alla Toscana Giunti. E per il calcio, per l'Europa League, 4 italiane in campo, Fiorentina che ha già vinto 5-1 con il Karabakh, Inter che ha perso 3-1 con lo Sparta Praga, e adesso in campo ci sono Sassuolo e Roma. Partiamo quindi dalla ufficializzazione oggi del no alla candidatura di Roma per le Olimpiadi 2024, ma per la giunta Raggi non sono comunque finite le difficoltà, perché in attesa del nuovo assessore al bilancio la capitale perde, o starebbe perdendo, anche il ragioniere generale dimissionario. L'assemblea capitolina ratifica il no alle Olimpiadi a Roma annunciato dalla sindaca Raggi. Con 30 voti favorevoli e 12 contrari passa la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. In aula i grillini ribadiscono che i giochi del 2024 sarebbero stati insostenibili per la capitale. Nessun intervento per la prima cittadina, a parlare il suo vice Daniele Frongia. Sono convinto che non ci sarà alcuna ritorsione da parte del CONI, del governo. C'è massima fiducia. C'è rispetto verso le istituzioni. Il voto è un nuovo schiaffo allo sport italiano, attaccano le opposizioni. Polemiche anche per la decisione della maggioranza di non far intervenire in aula i rappresentanti del CONI. Archiviata la partita sui giochi, la sindaca Raggi resta alle prese con il completamento della sua giunta. Dopo le defezioni delle ultime settimane, la prima cittadina ora rischia di perdere anche il ragioniere generale Stefano Fermante, che, denunciata la mancanza di un indirizzo politico in Campidoglio, sarebbe ad un passo dalle dimissioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi, come vi dicevo, ne riparleremo più tardi naturalmente, e intanto spostiamoci sulle nuove grane per l'ex sindaco Ignazio Marino nel mirino della magistratura per le cene pagate con carta di credito del comune del Campidoglio e per i profitti poco chiari della sua onlus. 3 anni, 1 mese e 10 giorni è la richiesta di condanna per Ignazio Marino avanzata dalla Procura di Roma, l'ex sindaco della capitale imputato di falso, peculato e truffa per l'uso della carta di credito del Campidoglio e per il pagamento di consulenze della sua onlus Imagine. Non solo, il comune si è costituito parte offese, dunque l'avvocatura del Campidoglio ha chiesto all'ex primo cittadino un risarcimento di 600.000 euro, 500 per il danno d'immagine e altri 100 per danno funzionale provocato dall'uso in proprio della carta di credito, ma anche per ingiusto profitto procurato alla propria onlus. Un profitto pari a 6.000 euro derivante da atti per compensi destinati a collaboratori fittizi o inesistenti, per il quale sono sotto accusa anche altre 3 persone, Garofalo, Pignatelli e Serra. Nell'imputazione sono ricordati 56 pranzi e cene a Roma e in altre città per circa 13.000 euro pagati da Marino con carta targata Campidoglio per interesse personale, dunque non annoverabili tra le spese di rappresentanza. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto, per quanto riguarda il referendum, partono stasera quasi in contemporanea le campagne per il sì e per il no. La sferzata moderata di Matteo Renzi sul referendum non piace alla minoranza Dem. In un'intervista al Foglio il premier dichiara che i voti di destra saranno decisivi, mentre la sinistra è ormai in larghissima parte a favore. Parole che non passano inosservate per Roberto Speranza. Il PD rischia di perdere anima ed elettori. Per Miguel Gotor è il progetto del Partito Nazione. Per l'ex segretario Pierluigi Bersani Renzi va verso il burrone. Inoltre, se vince il no, cade anche l'Italicum. Così Bersani a Radio 24. Il fascino del no sta in questo: col no salta l'Italicum, ok? Benissimo. E se uno pensa che il problema sia quello, allora è portato a dire, come dico io, o me lo togli. Intanto alla Camera si riunisce il comitato trasversale per il sì, presieduto dal costituzionalista Giovanni Guzzetta. Le due cose che vanno cambiate secondo noi sono esattamente quelle oggetto della legge, cioè un bicameralismo paritario, che è un'eccezione assoluta nel mondo, e la istituzione di una seconda Camera che rappresenti gli enti territoriali, le regioni. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E naturalmente questo sarà uno dei temi di approfondimento poi tra poco qui effetto notte. Il compleanno adesso di Silvio Berlusconi, l'ex cavaliere compie 80 anni, chiede al centrodestra di ritrovare l'unità, e nel corso di un'intervista che andrà in onda martedì prossimo durante Politics, Berlusconi dice: sono molto pessimista perché l'Italia non è più una democrazia. Poi dopo i festeggiamenti, festeggiamenti del suo compleanno, partenza per gli Stati Uniti, e per il processo Rubiter chiede Berlusconi il rinvio dell'udienza per cause di salute. Ponte sullo Stretto, evocato nei giorni scorsi da Matteo Renzi. Nel mese di dicembre l'Aula della Camera esaminerà la proposta di legge di Area Popolare sulla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, accogliendo una richiesta in tal senso di Maurizio Lupi del nuovo centrodestra. E poi l'incidente ferroviario negli Stati Uniti. Adesso, archiviando per un po' la politica italiana, passiamo oltreoceano. L'ultimo bilancio ufficiale di questo incidente, di questo treno di pendolari che si è schiantato nella stazione di Hoboken, è di un morto e 108 feriti, lo affermano in una conferenza stampa congiunta i governatori del New Jersey e dello stato di New York. Non sappiamo ancora cosa sia successo, dicono, sappiamo solo che il treno è arrivato ad alta velocità e non si è fermato. Sembra che si possa al momento escludere la matrice terroristica. In ogni caso, poi ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti. E c'è anche la Siria dove c'è una situazione sempre più terribile. Le Nazioni Unite hanno descritto una situazione disperata nei quartieri di Aleppo in mano ai ribelli, hanno avvertito della necessità di centinaia di evacuazioni mediche. Ad Aleppo i bambini sono intrappolati in un incubo, avverte l'UNICEF. Il nuovo appello poi del Papa perché la diplomazia arrivi a quella soluzione che ancora non si riesce a trovare, ma anche di questo poi si parlerà qui effetto note, perché Stati Uniti e Russia, insomma, sembrano più intenzionate a scambiarsi accuse che non veramente ad arrivare a un negoziato di pace. E domani i funerali di Shimon Peres. Israele si prepara per le esequie dell'ex presidente e premio Nobel per la pace. Shimon Peres sarà sepolto nel cimitero del Monte Herzl a Gerusalemme con gli altri padri di Israele. Alla cerimonia funebre, insieme ai leader del mondo occidentale e ai rappresentanti delle istituzioni europee, ci sarà anche il presidente palestinese Abu Mazen, che negli ultimi anni non si era mai recato a Gerusalemme in visita ufficiale. Israele ha dato il via libera all'arrivo di Abu Mazen, ma non ha abbassato la guardia nei rapporti con la Palestina. 8.000 agenti di polizia saranno in servizio domani in città, in quella che sarà un'operazione di sicurezza senza precedenti. Nel mondo arabo la figura di Shimon Peres è stata ricordata anche dal re di Giordania, Abdallah II, che ha mandato una lettera di condoglianze. Ai funerali, tuttavia, sarà rappresentato dal vice primo ministro. Tra i partecipanti anche il premier italiano Matteo Renzi, il presidente statunitense Obama, quello francese Hollande e l'alto rappresentante per la politica estera europea Federica Mogherini. Daniele Zinni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è un altro naufragio. Almeno 4 corpi sono stati recuperati dalla Guardia Costiera turca a seguito di un naufragio nel Mar Egeo, a sud-ovest di Bodrum, lo riporta l'agenzia turca statale Anadolu, secondo cui ha affondato un gommone diretto probabilmente in Grecia con a bordo 31 persone, tra queste altre 4 sono state soccorse, mentre 23 risultano disperse. E siamo di nuovo in Italia con la cronaca, l'ennesimo femminicidio, non mancano mai. Un uomo, Carmelo Reitano, pensionato di 73 anni a Valenza, in provincia di Alessandria, ha chiamato i carabinieri dicendo che la moglie non respirava più, di accorrere, ha riferito di un malore. Poi sono arrivati i militari, per la donna non c'era più niente da fare, aveva diverse ferite d'arme da taglio, una letale al collo, e l'ennesimo caso di femminicidio è stato così appurato. L'uomo è stato portato in caserma e accusato di omicidio volontario. E a Taranto un tentato, o comunque maltrattamenti che perdurano. Un uomo ha picchiato l'ex convivente in presenza del figlio minorenne, inseguendola fin sotto la caserma dei carabinieri di Castellaneta. Per mesi ha sottoposto la donna a minacce e aggressioni sia fisiche che verbali. Con l'accusa di maltrattamenti è stato arrestato e posto ai domiciliari, questo quarantenne. È chiaro che se vengono continuamente posti ai domiciliari, prima o poi arrivano anche loro al femminicidio completo. E poi le tariffe che tornano a scendere, almeno la bolletta dell'elettricità, mentre si registra un incremento per la bolletta del gas in concomitanza della normale stagionalità autunnale. Secondo quanto stabilito dall'Autorità per l'Energia, nell'abituale decisione trimestrale, dal 1 ottobre la bolletta elettrica registrerà un calo dell'1,1%, mentre il gas l'aumento sarà dell'1,7%, e nel complesso nel 2016 le famiglie dovrebbero risparmiare 96 euro. E poi una notizia dall'editoria: Mondadori venderà Bompiani alla casa editrice fiorentina Giunti. Formalmente si aspetta il via libera dell'autorità per la concorrenza, che di fatto questo via libera è sicuro. E poi il cinema: uscirà il 6 ottobre su 250 schermi in tutta Italia l'ultimo film di Roberto Faenza, presentato oggi alla stampa, un film che racconta uno dei grandi misteri d'Italia. Un film per riaprire il caso di Emanuela Orlandi. Voglio sapere perché De Pedis ha gestito il sequestro di Emanuela. Renatina ha soltanto eseguito un ordine. Tu lo sai che nessuno ti crederà. 33 anni dal rapimento della ragazza, figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, con La verità sta in cielo, Roberto Faenza mette in campo molte delle teorie su questo rapimento. Su tutte prevale la posizione del fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, che ha collaborato al film e appare anche sullo schermo. Pietro non si arrende all'archiviazione decisa dalla procura e chiede al Vaticano di rendere pubblici i dossier secretati che potrebbero far luce su quello che è successo. Il titolo, La verità sta in cielo, sottolinea Faenza, è una frase che avrebbe detto Papa Francesco quando ha ricevuto la famiglia Orlandi in Vaticano, dicendo per la prima volta in qualche modo che Emanuela è morta. Ma la verità non sta in cielo, ribadisce una delle protagoniste, Valentina Lodovini. Sono tanti, 33 anni. Sono tantissimi, credo che tutto si può dire tranne che la verità sta in cielo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso è arrivato, a proposito di femminicidi, un aggiornamento. Ne abbiamo parlato prima di due casi di cronaca. Degradato l'ormai ex caporale maggiore dell'esercito Salvatore Parolisi, che sta scontando 20 anni di reclusione per l'omicidio della moglie Melania Rea. Parolisi è stato ora trasferito dal carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, vicino Napoli, a quello di Bollate di Milano. Adesso direi di sollevarci da queste notizie con Giovanni Capuano, che ci aggiorna sull'Europa League. Ci sono 4 squadre, 2 già hanno finito, 4 italiane, le partite, vero Giovanni? Sì, hanno finito e abbiamo due risultati che sono diametralmente opposti, quello di Fiorentina e Inter, perché la Fiorentina ha travolto gli azzeri del Karabakh per 5-1 e prima nel suo girone, doppietta di Babacar, doppietta di Zárate, gol di Kalinic, c'è soltanto negli ultimi istanti della partita il Karabakh ha trovato la rete del 5-1 con l'Ovu, Fiorentina che ha 4 punti, e prima dicevamo con il PAOK Salonico, e quindi girone che si è messo in discesa. La prestazione invece sconcertante è stata quella dell'Inter a Praga, Inter che è stata battuta per 3-1 dallo Sparta Praga e ha avuto un approccio davvero pessimo alla gara, ha preso 2 gol da Kadlec nei primi 25 minuti con 2 clamorosi errori di piazzamento della difesa in entrambe le occasioni. Poi ha sofferto per tutto il primo tempo, avrebbe potuto incassare anche più gol. Nella ripresa si è un po' sistemata, ha segnato con Palacio al 26esimo il gol del 2-1 che sembrava riaprire la partita, poi però la mezz'ora è rimasta in 10 per l'espulsione di Ranocchia e subito dopo ha preso il 3-1 di Olek, colpo di testa, Andanovic è battuto. Dunque 3-1 per l'Inter, è la seconda sconfitta consecutiva nel girone perché aveva già perso anche al debutto contro gli israeliani dell'Apoel Bersheva. E dunque Inter che in questo momento è ultima, a 4 punti c'è l'Apoel e il Southampton che è la prossima avversaria, ma a questo punto Inter che deve assolutamente vincere. E sono in campo da circa una dozzina di minuti la Roma e il Sassuolo, non arrivano buone notizie da Genk perché il Sassuolo è sotto per 1-0, il gol l'ha segnato all'ottavo minuto Karelis che ha segnato una rete sfruttando anche un errore in uscita di Consigli, dunque Sassuolo che è sotto per 1-0 a Genk, 0-0 tra Roma e i romeni dell'Astra Giurgiu. La partita sulla carta dovrebbe essere facile per la Roma, invece in questi primi 11 minuti è stato l'Astra Giurgiu due volte ad arrivare vicinissimo alla rete dell'1-0. Grazie Giovanni Capuano, poi ci aggiorniamo ulteriormente sulle partite. Intanto, prima di lasciare lo spazio alla viabilità, vi aggiorno sui vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il numero 349-238-6666. Laria scrive: non mi sembra sbagliato aver ritirato la candidatura ai giochi del 2024 partendo dalle condizioni in cui versa Roma oggi, ma il CONI ha ritirato la candidatura dell'Italia ad ospitare i mondiali di rugby, ne abbiamo parlato brevemente ieri. Fattibili, dice, senza oneri eccessivi, con motivazioni a dir poco fumose, sembra quasi una ripicca puerile. In realtà oggi su questa cosa del ritiro dalla candidatura ai mondiali di rugby c'è stato anche qui un incrocio di accuse, perché la giunta capitolina o qualcuno del Movimento 5 Stelle insomma ha detto è colpa di Renzi se c'è stato questo ritiro, invece dal PD hanno detto è colpa, anzi mi pare che sia stato proprio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenti che ha detto è colpa della giunta Raggi se i mondiali, anche i mondiali di rugby, non si faranno più, insomma tutto uno scambio di accuse. Tra poco quindi approfondimenti, cominceremo a entrare nel cuore degli argomenti, ci sentiamo a momenti. JP Morgan Asset Management vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, quindi riassunto il quadro della giornata delle notizie più importanti che avete appena sentito. Adesso cominciamo ad approfondire i vari temi, vedo ancora i vostri messaggi per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito delle Olimpiadi. Alessandro dice: si chiama coerenza, anche oggi un sondaggio ha fatto vedere come i romani di destra e sinistra siano d'accordo con il sindaco con percentuali elevate, ma i nostri vecchi politici queste cose non le possono capire. Danilo dice che il malaffare non è la motivazione per cui si è detto no, ma è quella che lui va raccontando per delegittimare una scelta sensata, oculata, politicamente strategica, forse la prima fatta per la capitale dopo lustri, dice Danilo a proposito di Renzi che oggi ha detto che è stata una figuraccia questa cosa del ritiro della candidatura di Roma. Per Simone dice: preferisco non avere le Olimpiadi a Roma, ma in linea astratta e di principio Renzi ha ragione, che è stata una figuraccia e una resa di fronte al malaffare. Bene, allora direi che vi ricordo quali sono le notizie più importanti e poi cominciamo con il primo tema e primo ospite. Il Comune dice no a Roma 2024, la Raggi perde il ragioniere, rischio default per il Comune, tensione intanto con il CONI, Renzi dice è stata una figuraccia. Referendum, il Presidente del Consiglio, sempre Renzi, cerca voti a destra, no della minoranza, intanto oggi è il compleanno 80 anni di Berlusconi che chiede al centrodestra unità. I bimbi di Aleppo in Siria sono in trappola, 96 uccisi in pochi giorni. Il segretario di Stato Kerry, americano, avverte Mosca e dice stop ai raid o sospendiamo i colloqui. Il governo apre agli esodati, ci sarà una nuova salvaguardia nella legge di bilancio. E poi negli Stati Uniti si schianta il treno dei pendolari per New York, almeno un morto e 108 feriti, ma pare che non sia terrorismo. Caso Scontrini e Onlus, la procura chiede 3 anni per Marino e il Campidoglio chiede all'ex sindaco danni per 600.000 euro. i grandi del mondo domani a Gerusalemme per i funerali di Peres. E poi la truffa dei bimbi migranti abbandonati, 66, che sarebbero soprattutto minori albanesi, 66 denunce a Forlì per l'accoglienza, le regioni divise e poi questo nuovo naufragio in Turchia con 3 morti. Il voto è chiuso, votanti 42, maggioranza 22, favorevoli 30, contrari 12, astenuti nessuno, la mozione è approvata. La mozione del Movimento 5 Stelle approvata oggi nell'assemblea della giunta capitolina, cioè quella di ritirare definitivamente la candidatura alle Olimpiadi 2024 di Roma. Insomma, questa è una giornata comunque stracolma di notizie politiche. Infatti tra poco saluterò Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore, alla quale chiederò uno sforzo di sintesi, perché oggi appunto c'è stata l'assemblea della giunta romana. Sempre per quanto riguarda Roma, la sindaca Raggi ha preso per sé la delega dell'assessorato al bilancio, visto che mancano candidati, però rischia di perdere il ragioniere generale. Poi per quanto riguarda il referendum, Renzi è stato a Perugia e stasera è a Firenze per la campagna elettorale a favore. Marino, lo avete sentito, l'ex sindaco, per il caso Scontrini è stata chiesta una condanna a 3 anni e 10 mesi, e poi il giorno in cui Silvio Berlusconi compie 80 anni. Allora saluto Barbara Fiammeri. Buonasera Barbara. Buonasera a tutti. Sentito quanta carne al fuoco, no? Allora inizierei dalle Olimpiadi con appunto l'Assemblea Capitolina che ha approvato a maggioranza, abbiamo sentito la mozione del Movimento 5 Stelle per dire no alle Olimpiadi. La mozione, si legge, impegna il sindaco e la sua giunta affinché ritirino la candidatura della città a ospitare le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2024 e a tal fine adottino gli atti e le iniziative necessarie. È stata un'assemblea concitata in Campidoglio la discussione, perché si è aperta questa mattina con la decisione di non avere interventi esterni. Voleva intervenire la coordinatrice del comitato promotore delle Olimpiadi, Diana Bianchedi, voleva prendere la parola, non potendo, allora ha improvvisato in un'altra sala una conferenza stampa. Sentiamo un passaggio. Ero semplicemente venuta qua per spiegare il progetto, non ho avuto modo di farlo, non so con quale responsabilità ora prenderanno la decisione e andranno a votare su qualche cosa che non hanno neanche mai letto. Sentiamo cosa le ha risposto la consigliera Seccia del Movimento 5 Stelle. Non vi è stato miglior referendum consultivo sulle Olimpiadi se non quello avvenuto con le elezioni del giugno scorso, con cui oltre 770.000 elettori, ripeto, 770.000 elettori, e lo dico, è una cifra in difetto, quindi il 67% dei romani ha già espresso la propria volontà attraverso un voto praticamente plebiscitario. Barbara, poi oggi, insomma, quindi il no è definitivo, anche quindi, se non il... Non c'è nessuna sorpresa. Non c'è nessuna in sorpresa, questo. Infatti, anche se è arrivato il commento del CIO, Comitato Internazionale Olimpico, che ha detto: siamo consapevoli del voto del Consiglio Comunale, così come siamo consapevoli del supporto del governo italiano e del governo della Regione Lazio alla candidatura di Roma. Perché sembra che su questa cosa oggi si sia spaccata anche la sinistra italiana, SEL, nel senso che Stefano Fassina ha votato anche lui no alla candidatura di Roma, mentre in regione SEL ha votato a favore. Che cosa significherà questo, a parte contrasti interni, però alla fine mi pare che non ci sia molto altro da... Significa che come dire, la sinistra è in una situazione in cui un po' insegue i grillini, un po' c'è chi invece preferisce mantenere un'alleanza di centrosinistra classica, diciamo. Però mi sembra che il dato di oggi politico su questo no alle Olimpiadi, che ripeto era scontato, lo sapevamo tutti, si trattava solo di ufficializzarlo, sì, è il come è avvenuto, cioè in realtà di queste Olimpiadi Virginia Raggi praticamente non ha mai parlato, abbiamo passato settimane in cui si diceva che avrebbe incontrato Malagò, poi in realtà è arrivato in ritardo, i due non si sono incontrati, e anche oggi lei non è che ha fatto un intervento, cioè ci si aspettava dal sindaco in consiglio durante l'assemblea che lei facesse un intervento per spiegare le ragioni del no, e invece lei è arrivata soltanto al momento del voto, probabilmente perché nel frattempo c'era il caso appunto del ragioniere generale del comune di Roma. Fermante, infatti. Questo è l'altro aspetto. Questo è un dato importante, perché comunque In mancanza di un assessore al bilancio, le deleghe le ha prese ieri la Raggi, che diceva: ma noi abbiamo un'ottima ragioneria. Oggi il ragioniere viene fuori che si è dimesso, perché in realtà questo ragioniere, che poi è un dipendente del Comune di Roma, non ha un interlocutore. Cioè, perché lui si era dimesso, mi pare avesse mandato questa lettera a luglio, dice nel frattempo nessuno mi ha risposto. Luglio aveva mandato, da quello che io ho accertato, lui a luglio aveva parlato con Minenna, descrivendogli appunto la situazione dei conti romani e dicendogli che bisognava intervenire al più presto. Si parla che per evitare il dissesto servano immediatamente 240 milioni di euro, questa è la cifra che almeno mi risulta. Dopodiché sappiamo che Minenna si è dimesso il 1° settembre e da quel momento, da quello che si capisce, questo ragioniere non ha avuto mai modo di parlare col sindaco o con nessun altro, perché poi nessun altro si occupa del bilancio. E questo che cosa comporta? Che tutti gli assessorati sono fermi, perché chiaramente se non c'è chi firma per poter spendere o per poter cambiare capitoli di bilancio da una parte all'altra, non si può fare niente. Per questo l'assessorato al bilancio è, come dire, decisivo, insomma è facilmente comprensibile. Detto questo, ovviamente poi ci sono le due parti politiche, cioè Renzi che cavalca dicendo che per questo è l'ennesimo esempio dell'incapacità di governare, sì, del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle che accusa Renzi invece di spostarsi per prendere le posizioni dei cosiddetti palazzinari. Insomma, però qui rientriamo nella politica, il problema poi è sempre la gestione. La gestione di Roma, che in quel nostro momento non c'è. Questo è quanto, per quanto riguarda il capitolo, direi, 5 Stelle, Olimpiadi e Roma. Roma. Barbara, invece per Marino proprio una battuta, perché abbiamo ancora poco tempo, vorrei parlare anche di Renzi, referendum, lo scontro tra lui e D'Alema a distanza. Marino, questi per ora sono una richiesta, 3 anni e 10 mesi. Una richiesta, però insomma abbastanza pesante, dire, mi sembra. È abbastanza pesante. Molte neanche gli stupratori prendono adesso. Credo che ci siano, lo ripeto, non sono in grado di fare delle valutazioni di questo tipo. Sì. Credo che quando uno ha un certo tipo di carica ci siano delle aggravanti. Cioè un conto che lo fa un privato cittadino, un conto che lo faccia un sindaco. Un ruolo così istituzionale importante. Ecco. Senti, sentiamo gli auguri di Renzi, non solo Berlusconi, sentiamo. Siccome oggi è il compleanno di Silvio Berlusconi e di Pierluigi Bersani, facciamo un augurio a tutte e due e gli facciamo un applauso bello. E è così, sono nati lo stesso giorno. Guarda, mi voglio allargare, siccome ieri abbiamo chiuso l'accordo sulle pensioni, oggi è anche il compleanno della CGIL. Non credo che Berlusconi lo sappia. 110 anni da CGIL, sembra che Renzi sia più tornato, diciamo, a toni conciliatori con i sindacati, soprattutto ieri dopo questo primo accordo sulle pensioni. Senti, invece è piuttosto irritata la minoranza PD per quest'altra affermazione e convincimento di Renzi. Sentiamo. Oh, questo non è un referendum che riguarda il PD, eh? Il congresso si fa in un altro momento, questo è un referendum che riguarda il paese. Io ieri ho detto, è uscito oggi in un'intervista, che in questo referendum saranno decisivi i voti della destra. Perché? Perché mentre io credo che il PD e il centro-sinistra avrà la grande maggioranza di voti a favore, la destra si è schierata, in modo abbastanza stravagante per me, in una posizione totalmente ostile. E un autorevole esponente della minoranza del mio partito ha detto, vuole prendere i voti della destra. Sì. Forse è per questo che lui si chiama minoranza. Io invece vorrei chiamarmi maggioranza al referendum. Che dici, Barbara? Beh, devo dirti che Renzi, secondo me, ha ragione su questo. Nel stasera, tra l'altro, a Firenze, con la campagna elettorale per il referendum. Sì, ma spiego perché dico che ha ragione. Perché un referendum, non solo quelli costituzionali, anche quelli abrogativi, cioè inevitabilmente si rivolgono a un elettorato più ampio rispetto allo schieramento. Cioè quando c'è stato il referendum sul divorzio, i socialisti, che erano i principali promotori di quel referendum insieme ai radicali, cioè se andavamo a vedere le percentuali facevano il 15% forse in due, quindi è evidente che si sono rivolti a un'altra parte di elettorato che comunque votava Democrazia Cristiana e andava in chiesa tutte le domeniche. Quindi il discorso di Renzi, se vuoi, è anche banale, cioè è evidente che più voti, più consenso c'è su questa cosa. Perché in questo caso, nel caso del referendum costituzionale che abbiamo di fronte, ci troviamo con uno schieramento composito tra gli oppositori. Anche gli oppositori cercano voti a chi a destra, chi a sinistra. Diciamo lì è chiaro perché sono varie parti, no, che fanno parte di destra e sinistra. Renzi, anche il PD del 40% delle europee non può vincere questo referendum, ma anche se votasse tutto il PD, quindi è inevitabile che si deve rivolgere anche fuori dal suo elettorato tradizionale. Chiaro. Quindi, Barbara, invece sinceramente non trovi strano questa affermazione? Invece, scusami, siccome abbiamo ancora un minuto, D'Alema, allora, 80 anni di Berlusconi oggi, D'Alema ha detto molta stima di lui, è diventato un politico di razza, non avrei mai pensato che un imprenditore come lui sarebbe diventato un politico di razza. Si parla di questo amore, no, di anni tra D'Alema e Berlusconi in realtà, mentre ha parlato malamente di Renzi, almeno dal suo punto di vista, ha detto il berlusconismo in realtà continua con Renzi, proprio Renzi che avrebbe dovuto essere un oppositore invece sta continuando su questa linea. Sentiamo Renzi con altrettanta perfidia che cosa ha risposto. No, ma io sono uno di quelli che ammiro chi fa sempre bene, bravi, quelli che fanno sempre. Io ne faccio tante e qualcuna ne sbaglio. No, D'Alema non glielo dico perché. Guarda che D'Alema nel merito ha una storia personale, per cui su questi punti è totalmente d'accordo. Ma siccome ha un obiettivo politico, tattico, che è quello di distruggere una persona e un'esperienza, fa la sua battaglia, in bocca al lupo, va bene, non è un problema. È legittimo. D'Alema è un esperto di lotta in casa, fratricida. Citofonare Romano Prodi, citofonare Walter Veltroni per sapere di cosa stiamo parlando. Barbara, hai proprio 30 secondi di una battuta, se vuoi su Berlusconi, se vuoi su Renzi. Sulla riscoperta di Berlusconi, ecco. mi viene un po' da sorridere. Vedremo quanto durerà, insomma, credo solo il giorno del suo compleanno, e poi perché ormai Berlusconi, avendo 80 anni ed essendo insomma nella fase calante, non fa più paura, e credo che anche da questo dipendano tutti questi auguri. E per quanto riguarda lo scontro Renzi-D'Alema, cioè anche questo fa parte di un gioco interno. Diciamo interno, che D'Alema gli ha fatto secondo me in questo momento particolare un complimento a Renzi, dicendogli che come dire all'erede di Berlusconi, perché se Renzi cerca voti a destra, beh, allora e allora la destra, diciamo, ha trovato il suo punto di riferimento. Grazie Barbara Fiammeri, probabilmente a domani ci sentiamo, Barbara. Ciao Barbara. Buonasera. Ciao. E ancora vostri messaggi, moltissimi. C'è per esempio Andrea, dice la politica è l'arte di impedire alla gente di impicciarsi di quello che la riguarda. 349-238-6666 per i vostri messaggi, pure pagina Facebook di Effetto Notte. Ci prendiamo una pausa tra poco. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia, gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. State ascoltando un programma offerto da Microsoft Dynamics, soluzioni ERP e CRM per accelerare il tuo business. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Abbiamo parlato di tante cose, il riassunto della giornata l'avete sentito all'inizio, adesso proseguiamo con l'approfondimento di alcuni temi in particolare. Intanto potete continuare a interagire sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure attraverso il numero per SMS e WhatsApp che è 349-238-6666. Per esempio Simone, a proposito di Renzi, che dice per il referendum, pur di avere i voti, mi va bene avere i voti anche della della destra, non voglio essere minoranza nel paese, voglio essere maggioranza. Simone dice il ragionamento non fa una piega, purtroppo, visto che le elezioni le decide l'elettorato moderato. Bersani ha fallito perché non solo non ha attirato i voti da destra, ma neppure da sinistra, dice, dove restano divisioni, sfiducia e personalismi. Ora però andiamo oltre i confini italiani tra pochissimo. Prima vi ricordo, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, quali sono le notizie più importanti. Roma, la giunta capitolina formalizza il no alle Olimpiadi, intanto si dimette anche il ragioniere generale. Per il caso Scontrini, chiesti 3 anni e 10 mesi per l'ex sindaco Marino. Referendum, chi non prende anche i voti della destra, dice Renzi, resta minoranza, io punto ad avere la maggioranza. Il compleanno di Berlusconi, l'ex cavaliere compie 80 anni e chiede al centrodestra di ritrovare l'unità. Dopo i festeggiamenti, la partenza per gli Stati Uniti e per il processo Rubiter chiede il rinvio dell'udienza per cause di salute. Stati Uniti, un treno di pendolari per New York si schianta alla stazione ferroviaria del New Jersey, il bilancio è di un morto e 108 feriti, esclusa l'ipotesi terrorismo. Siria, l'UNICEF denuncia ad Aleppo strage di bambini, ne parleremo tra pochissimo. E poi la morte di Shimon Peres, Obama, Renzi, Abu Mazen domani al funerale dell'ex presidente israeliano. La Siria, parliamo della Siria che ormai... è terra di scorribande, di bombardamenti, di scannatoi, dove in 5 anni di guerra civile sono morte oltre 300.000 persone, di cui buonissima parte civili. E quelli che non sono morti sono fuggiti o sono in trappola fra assalti diversificati che arrivano un po' da tutte le direzioni, perché c'è una situazione in Siria da diverso tempo che davvero non si capisce chi bombarda chi, chi uccide chi, chi attacca chi. Secondo i dati ONU ad oggi, anzi sono proprio di oggi questi dati ONU, sono quasi 900.000 le persone bloccate nelle aree assediate e da fine cessate il fuoco, si era tentata nei giorni scorsi una tregua di una settimana che non c'è stata, da allora 320 civili sono stati uccisi, di cui 100 bambini. I negoziati per la pace non procedono, c'è un fuoco di accuse incrociate tra Stati Uniti e Russia. A questo punto che si fa? Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. Ma che si fa? Innanzitutto si spera che in qualche modo si attenui la battaglia di Aleppo, che è quella fondamentale, la chiave di questo conflitto. Difficilmente però accadrà. Difficilmente accadrà perché la tregua, come sapete tutti, è già saltata da un pezzo, perché la Russia e Assad vogliono prendere e riconquistare questa città e cercare in qualche modo di scacciare contro i ribelli, l'opposizione dei ribelli che sta nella parte orientale, dove ci sono 280.000 persone assediate. Quasi tutti gli altri abitanti, quelli che hanno potuto, sono scappati nella parte ovest, e in mezzo c'è una sorta di terra di nessuno costituita da quel cuore di Aleppo, che è un po' il cuore sanguinante anche di questa città, dove c'era la Kalat, la famosa cittadella storica, la moschea degli Omayyadi, tutto praticamente distrutto, ma lo era già l'ultima volta che ero stato lì, più di un anno fa. Dunque, quale potrebbe essere il tornante di questa questione? Potrebbe esserci una svolta, potrebbe esserci il 10 ottobre. Il 10 ottobre Putin andrà in Turchia a incontrare Erdogan. Come sapete la Turchia è uno dei paesi più coinvolti sul terreno, è entrata con le sue truppe in Siria, appoggia delle milizie che stanno combattendo proprio ad Aleppo. Aleppo è a 65 km dalla frontiera turca. Quindi Putin ed Erdogan potrebbero discutere di, in qualche modo, di come sistemare, di spartirsi in zone di influenza quest'area. I turchi in qualche modo hanno già raggiunto un obiettivo, che era quello di entrare in Turchia, in Siria, e spezzare, come dire, la continuità territoriale che avevano ottenuto i curdi siriani con le loro conquiste e con le loro avanzate, curdi siriani che sono sostenuti anche tra l'altro dagli americani. E poi Putin potrebbe in qualche modo appunto mettersi d'accordo con Erdogan, non ancora con gli Stati Uniti, ma credo che non lo farà con questa amministrazione Obama, credo che ne aspetterà un'altra, quella che prenderà in mano dopo le elezioni di novembre. E allora ci sarà un po' di tempo da aspettare, ma insomma la situazione è quella che abbiamo sentito, estremamente tragica, e immaginiamo, speriamo che davvero si arrivi a un negoziato, una forma di negoziato, anche perché leggevo che la campagna Russia in Siria ha tra l'altro mietuto in un anno più vittime di quelle causate dallo Stato Islamico in 3 anni, così dicono alcuni osservatori. Alberto, ci dobbiamo lasciare, ma ci sentiremo naturalmente presto, sempre su questa situazione in divenire, ma è anche di stagnante. Grazie Alberto. Grazie a voi e buona serata. Grazie, ciao Alberto. Ora invece ci trasferiamo negli Stati Uniti, c'è il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore, Ciao Marco. Ciao a voi. Per questo schianto di questo treno di pendolari nella stazione di Hoboken in New Jersey ci sarebbero almeno un morto e 108 feriti da quello che era l'ultimo bilancio, Marco. C'è stato questo schianto in questa stazione, si parla di errore umano, sarebbe stato escluso la matrice terroristica, ma tu che cosa sai di più adesso? Sì, quello che dicevi è assolutamente vero. Al momento appunto è stata esclusa quasi subito una matrice terrorista, si batte la pista del guasto, dell'errore umano, e di sicuro è stato un disastro tragico per il sistema dei pendolari, l'enorme sistema ferroviario che muove milioni di pendolari tutti i giorni fuori e dentro New York. In questo caso il treno veniva da sud, dal New Jersey, e appunto si è schiantato nella stazione di Hoboken, che è appena al di là del fiume Hudson. E tra l'altro delle immagini terribili si sono viste, si temevano anche più morti, per fortuna almeno, diciamo. Assolutamente, sembra che il bilancio sia, diciamo, quantomeno dei morti sia per il momento fermo ancora uno, anche se ci sarebbero almeno 2 o 3 feriti definiti gravi o molto gravi. Tra i più di 100 feriti complessivi, la prima carrozza del treno è praticamente distrutta, altre carrozze severamente danneggiate, la stessa stazione è diciamo considerata pericolante proprio perché il treno non si è di fatto fermato diciamo sui paraurti della stazione, che era l'ultima stazione, e si è schiantato a velocità decisamente eccessiva, entrando quasi nella hall fermandosi appena prima della hall dove diciamo di attesa, nella grande sala d'attesa centrale. Poteva fare una strage, veramente una strage, no? Quindi poteva essere molto molto anche molto molto più grave il bilancio. Il tetto della stazione stessa è caduto parzialmente, ore sono state impiegate per far uscire e estrarre anche dalle macerie e dai rottami del treno i sopravvissuti. Marco, mi pare per chiudere che per ora si parli soprattutto di errore umano, ma devono ancora chiarire le cause naturalmente, no? Sarebbe sì, sono partite subito chiaramente le indagini. Immagini dell'autorità dei trasporti, sì, la causa più probabile sembra un errore umano, proprio perché il treno sembrava essersi aver rallentato come normalmente fa per entrare in stazione, poi improvvisamente ha avuto un balzo, un'accelerazione, secondo il racconto dei testimoni, e poi il terribile schianto. Non è frequente negli Stati Uniti, per chiudere Marco, che ci siano incidenti di questo tipo? Non sono diciamo, questo tipo, a questo livello di incidenti non è frequentissimo, però incidenti nel sistema ferroviario americano ci sono stati dei deragliamenti negli ultimi anni, per eccessi, spesso per errori umani, eccesso di velocità in curva, a volte guasti sulle linee ferroviarie che creano diciamo situazioni di pericolo, per cui c'è un problema, diciamo, al di là di tutto c'è un problema riconosciuto dagli stessi politici, dagli stessi leader politici americani, di rilancio e di miglioramento delle infrastrutture americane di base, che va appunto dalla segnaletica proprio ai binari, ai treni, ai sistemi diciamo di controllo dei treni. Grazie Marco Valsani da New York. Ciao Marco. Grazie a voi. Ciao, buona giornata. A te che ancora è aperta la giornata. E viabilità, e ci sentiamo tra poco. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano con voi, le notizie ve le ricordo in pochi secondi. Il comune dice no a Roma 2024, il Campidoglio, oggi è stata l'assemblea, la Raggi perde il ragioniere, c'è il rischio default, e poi tensione con il CONI, Renzi dice è stata una figuraccia. Referendum, il Presidente del Consiglio cerca voti a destra, contrarietà della minoranza, di sinistra del PD, e poi oggi gli 80 anni di Berlusconi che chiede al centrodestra di ritrovare la sua unità. I bimbi di Aleppo in Siria, ne abbiamo parlato, sono in trappola, 96 uccisi in pochi giorni. Il segretario di Stato americano Kerry avverte Mosca: stop ai raid o sospendiamo i colloqui. E il governo italiano che apre agli esodati, ci sarà una nuova salvaguardia nella legge di bilancio. Si schianta il treno dei pendolari per New York, ne abbiamo appena parlato, almeno un morto e 108 feriti, non è comunque terrorismo. E poi un aggiornamento sulle partite di Europa League: in campo c'è la Roma contro l'Astra Giurgiu, 1-0 per il momento conduce la Roma, e poi Genk Sassuolo 0-0. Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Il postino suona sempre due volte e tutti i giorni, grazie al Parlamento europeo che ha detto no alla posta a giorni alterni. La maggioranza degli eurodeputati ha votato a favore del mantenimento di un servizio postale universale e quindi di un recapito postale garantito durante tutti i giorni lavorativi. Se ne parla oggi, nell'era in cui la posta è diventata elettronica e le buste viaggiano sul web? Sì, proprio ora, a 20 anni di distanza dalla direttiva che riguarda le poste nell'Unione Europea. L'Europarlamento ha posto alcune raccomandazioni, quindi non vincolanti, indispensabili proprio nell'era del web. Il servizio postale deve essere universale, di alta qualità, a condizioni accessibili, comprendente almeno 5 giorni di consegna e di raccolta a settimana per tutti i cittadini, compresi quelli delle zone remote come isole e zone di montagna. Questo per contenere la volontà di alcuni servizi postali nazionali, vedi l'Italia, che invece prevede, a partire dal 2017, la consegna di lettere e giornali a giorni alterni o ogni 3 giorni per quelle zone remote. Ne parliamo con l'eurodeputata Isabella De Monte, che saluto e alla quale rivolgo subito la domanda che arriva da una comunità montana del Trentino. Temono di vedersi recapitare i giornali a giorni alterni. La preoccupazione è quella di essere ancora più isolati dal resto del mondo, che invece va nella direzione di una sempre maggiore interconnessione. In che misura questa direttiva può agire sulle scelte di organizzazione dei sistemi postali nazionali? Noi abbiamo approvato recentemente una risoluzione che riprende i contenuti della direttiva, ossia della consegna 5 giorni settimanali, salvo casi eccezionali. Quindi siamo in linea col passato. Le poste hanno avuto l'autorizzazione a fare dei recapiti a giorni alterni, però il problema non sembra riguardare oggi la consegna dei giornali, perché il diritto all'informazione è un diritto che deve essere prevalente rispetto agli interessi economici. Le comunicazioni cartacee e i volumi di corrispondenza sono in costante calo, lo vediamo tutti i giorni, mentre le nuove tecnologie hanno favorito e favoriscono sempre più gli acquisti online, l'e-commerce e gli invii elettronici, che per quanto riguarda gli acquisti online vanno comunque consegnati. L'arrivo sul mercato di altri vettori ha messo ancora più in difficoltà i servizi postali nazionali, che risultano così meno competitivi? Sì, questo obiettivamente è successo, perché il servizio postale ha una consegna pacchi che però è minore rispetto al resto del volume di attività e quindi anche di incassi. Per cui certo c'è una competitività molto alta, questo va verso il futuro perché ci sarà un incremento di questo tipo di servizio, non deve essere ovviamente poi una corsa eccessiva al ribasso che può creare anche delle conseguenze spiacevoli per i posti di lavoro. Quale sarà il servizio postale del futuro? Ma noi ne stiamo già parlando da parecchio tempo in merito ai cosiddetti droni. Questo diventerà senz'altro uno strumento per la consegna, in particolare per le zone più remote. Tutto questo cerchiamo di rafforzare l'aspetto sociale, quindi comunque la tutela dei posti di lavoro, che è sempre un qualche cosa che un legislatore ovviamente deve tenere in considerazione. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E ora Giovanni Capuano, che ci aggiorna sull'Europa League e ci fa un riassunto anche delle partite precedenti, non è vero Giovanni? Sì, partiamo però dai risultati delle due partite in corso che sì, in primi tempi hanno appena visto chiudersi e do i risultati. La Roma è sul 2-0, il vantaggio sui romeni dell'Astro Giuccio. Il gol di Strootman al quarto d'ora del primo tempo, una deviazione sotto misura e poi pochi istanti fa, proprio pochi secondi prima del fischio dell'arbitro Azzero che mandava le squadre negli spogliatoi, è arrivato il 2-0 di passo, di testa, una mischia all'interno dell'area piccola e c'è stato il raddoppio della Roma che ha sofferto soltanto nei primi minuti e poi è diventata padrona del campo. È sotto invece per 2-0 Sassuolo in Belgio contro il Genk, le reti tutte nei primi 25 minuti di Carelis all'ottavo e di Bailey al 25esimo. Non sta giocando bene Sassuolo, merita il Genk il doppio vantaggio, anche se negli ultimi minuti la formazione di Di Francesco si è vista. Parlavi delle gare invece che si sono già concluse, sì. Due alle ore 19, c'è stato il rotondo successo della Fiorentina sul Karabakh per 5-1 con le doppiette di Babacar e Zarate e il gol di Kalinic e poi la clamorosa caduta dell'Inter a Praga contro lo Sparta Praga, 3-1, doppiette di Kadlec nei primi 25 minuti, Palacio per il 2-1, poi l'espulsione di Ranocchia e subito dopo il 3-1 di Olek, una partita che l'allenatore dell'Inter, De Boer, ha bollato come irricevibile, sbagliata per l'atteggiamento dei nerazzurri che hanno 0 punti in classifica dopo le prime 2 giornate del girone e a questo punto sono obbligati praticamente a vincere tutte le 4 partite rimanenti. Grazie Giovanni Capuano, e ancora tempo per pochi messaggi. Uno forse dice: siamo entrati nel terzo mondo, se la settima potenza mondiale non ce la fa a organizzare le Olimpiadi siamo la frutta, poveri noi, vedremo cosa farà nei prossimi mesi con i soldi risparmiati per Roma. Mentre un messaggio di punto di vista opposto, Marta da Milano dice: per le Olimpiadi a Roma penso che di fronte alla situazione debitoria della città benvenuto sia il no alle Olimpiadi. Bene, sui vostri pareri direi che ci possiamo brevemente salutare, poi vi aggiorno alle 22.